Avevamo appena archiviato il risultato del voto greco del 17 giugno che aveva spazzato via le possibilità di un'uscita della Grecia dall'euro, che subito sono tornate le nubi all'orizzonte di questa torrida estate della moneta unica. Il primo atto del governo di coalizione guidato dal conservatore Antonis Samaras è stato di chiedere di bloccare i licenziamenti dei 150.000 funzionari pubblici in esubero e di prolungare di almeno 2 anni il periodo per applicare gli ulteriori tagli a pensioni e salari per 11,6 miliardi di euro nel biennio 2013-2014. Il governo teme forti proteste di piazza, guidate proprio dalla sinistra radicale di Siriza, oggi secondo partito del paese al 27% dei consensi, e se dovesse procedere con questi nuovi tagli. Bruxelles, fredda, ha subito risposto che non è possibile discutere di questioni di questo tipo senza avere una chiara valutazione di come il programma sia stato attuato. Il rischio è che questo braccio di ferro con Bruxelles, la Troica, non versi le nuove tranche di aiuti alla Grecia e questa non possa pagare né i bond né gli stipendi, tornando così sotto i riflettori dei mercati molto prima del previsto, e con essa il destino della sua appartenenza all'euro. Vittorio D'Arold, Radio 24, Il Sole 24 Ore.